Quadriennale d'arte. Non perdere la più importante mostra sull'arte contemporanea in Italia. 150 opere, 99 artisti, le ultime tendenze, i grandi miti del nostro tempo. Al Palazzo delle Esposizioni di Roma fino all'8 gennaio. Quadriennale16.it. Ad alta voce, Piero Baldini legge Bâtard di Jack London, traduzione di Davide Sapienza. Bâtard era un diavolo. La cosa era risaputa in tutte le terre del nord. Molti lo chiamavano stirpe d'inferno, ma Black Leclerc, il suo padrone, per lui scelse l'infame nome di Bâtard, bastardo. Dunque anche Black Leclerc era un diavolo e i due erano bene assortiti. Il proverbio dice che quando due diavoli si mettono insieme alla fine sono guai, il che era prevedibile, soprattutto quando Bâtard e Black Leclerc si unirono. La prima volta che si incontrarono, Bâtard era ancora un cucciolo magro e affamato, gli occhi duri. I due si incontrarono a morsi, ringhia e cattivi sguardi, visto che Leclerc aveva il labbro superiore lupesco per come si alzava quando mostrava i denti bianchi e crudeli. E si alzò, allora, e i suoi occhi luccicavano perversi, mentre agguantava Bâtard che si dimenava per trascinarlo fuori dalla figliata. Si capirono di sicuro. Infatti Bâtard affondò all'istante le sue zanne da cucciolo nella mano di Leclerc e Leclerc con freddezza strinse il pollice e l'indice sul cane, facendolo quasi soffocare. «Sacré don!» mormorò il francese scrollandosi il sangue dalla mano appena morsicata, mentre fissava il cucciolo dimenarsi soffocato nella neve. Leclerc si rivolse a John Hamelin, il bottigaio del 60 Mile Post. «Quanto, eh? Messie, quanto? Io compro ora, io compro subito cane!» Poiché Leclerc odiava Bâtard di un odio esageratamente duro, lo acquistò e gli affibbiò il suo nome infame. E per 5 anni la coppia si avventurò attraverso le terre del nord, dal delta del St. Michael e dello Yukon, al tronco superiore del Pelly e addirittura sino al Peace River, alla Trabasca e al Great Slave. Fu così che si fecero la reputazione di cattivi irriducibili, come mai prima si era detto di uomo e di cane. Bâtard non conosceva il proprio padre, per questo si chiamava così, ma John Hamelin sapeva che il padre era un grande lupo grigio delle foreste. La madre di Bâtard, per come vagamente la ricordava, era stizzosa, litigiosa, oscena, robusta. Aveva la testa ampia e il torace possente, l'occhio malefico, un attaccamento ferino alla vita e il talento dell'inganno e della malvagità. In lei non vi erano né fiducia né affidabilità. Si poteva solo contare sulla sua slealtà e la prova della sua depravazione erano gli amori nella foresta. La stessa forza e malvagità che erano state della sua stirpe, Bâtard, carne e ossa della loro carne e delle loro ossa, le aveva ereditate in pieno. E poi era arrivato Black Leclerc a mettere la sua mano pesante su quel pezzo di vita giovane e pulsante per incalzarla, spronarla e modellarla sino a farne una grossa bestia irsuta, raffinata canaglia straripante di odio, sinistra, maligna e diabolica. Con il padrone adatto, Bâtard avrebbe potuto diventare un normale deficiente cane da slitta. Non ne ebbe mai l'opportunità. Leclerc rafforzò infatti la sua congenita nefandezza. La storia di Bâtard e di Leclerc è la storia di una guerra, di 5 anni crudeli, 5 anni accaniti, e dei quali quel primo incontro è il degno riassunto. Per cominciare, la colpa fu di Leclerc, che odiava con intenzione e intelligenza, mentre lo sgraziato cucciolo con le zampe lunghe odiava semplicemente alla cieca, distinto, senza metodo né intenzione. All'inizio non furono crudeltà raffinate, quelle sarebbero giunte in seguito, ma banali pestaggi e rudi atti di brutalità. Durante uno di questi Bâtard rimase ferito a un orecchio. Non riuscì più a recuperare il controllo dei muscoli lacerati e da allora in poi l'orecchio penzolò molle, a fulgida memoria del suo aguzzino. E lui non lo dimenticò. Quella da cucciolo fu per lui un'epoca di ribellione insensata. Veniva sopraffatto sempre, ma reagiva, perché reagire era nella sua natura. Era indomabile. Nonostante gli striduli guaiti di dolore provocati dalla frusta e dal bastone, riusciva a tirar sempre fuori un ringhio insolente. Quell'amara minaccia di vendetta della sua anima, che attraeva immancabilmente sempre più percosse e pestaggi. Ma dentro aveva il tenace e stretto legame alla vita che era già stato di sua madre. Niente poteva ucciderlo. Rifioriva nelle avversità, ingrassava facendo la fame, e nel corso della sua terribile lotta per la vita sviluppò un'intelligenza sovrannaturale. La furtività e l'astuzia da aschi, come la madre, e la furia e il valore del lupo, come il padre, erano in lui. È probabile che per via del padre non si lamentasse mai. I guaiti del cucciolo scomparvero con le zampe dinoccolate, e allora divenne taciturno, truce, veloce a colpire, indolente nell'ammonire. Alla bestemmia replicava con il ringhio, alla botta con il morso, sempre con l'implacabile ghigno dell'odio. Ma Leclerc non riuscì più a tirargli fuori l'urlo della paura e del dolore, neppure nell'agonia più estrema. La sua indomabilità non scoraggiò il furore di Leclerc, aizzandolo al contrario a escogitare le peggiori diavolerie. A Batard Leclerc dava mezzo pesce ai suoi compagni uno intero? Batard si faceva avanti e rubava dagli altri cani, svuotava perfino i depositi di cibo e si produceva in mille mascalzonate, sino a diventare il terrore di tutti gli altri cani e dei loro padroni. Leclerc picchiava Batard e coccolava Babette, che non lavorava neppure alla metà di lui, bene. Batard l'aggrediva lì sulla neve, spezzandole la zampa posteriore con quelle mandibole implacabili, costringendo Leclerc ad abbattere Babette. Allo stesso modo, con sanguinose battaglie, Batard conquistava i compagni di muta, stabiliva la sua legge della pista e del foraggio, e a essa li faceva attenere. In 5 anni si sentì rivolgere una sola parola amorevole, con un gesto gentile della mano, ma non ne conosceva il significato. Così fece un balzo da belva indomita qual era, e le sue mascelle in un baleno si richiusero. Era successo al missionario di Sunrise, arrivato da poco nella regione, abituato a elargire una parola amorevole con gesto gentile della mano. Per 6 mesi non scrisse più lettere a casa negli Stati Uniti. E il chirurgo di McQuestion fece 320 chilometri sul ghiaccio per salvarlo dall'avvelenamento del sangue. Uomini e cani guardavano Batard di traverso quando arrivava al loro campo in una stazione commerciale. Gli uomini lo accoglievano a piedi, minacciosamente levati, pronti a sferrare un calcio. I cani con la criniera arruffata e le zanne pronte. Una volta un uomo scalciò Batard, e Batard, grazie al morso rapido da lupo, chiuse le mandibole come una trappola d'acciaio sul polpaccio dell'uomo e premette sino all'osso. Quando l'uomo decise di togliergli la vita, Black Leclerc, con sguardo minaccioso, dopo aver sfoderato il coltello da caccia, si mise in mezzo. L'uccisione di Batard. Oh, sacré don, quello era un piacere che Leclerc aveva riservato a se stesso. Un bel giorno sarebbe accaduto. Altrimenti, boh, chi poteva saperlo? Comunque il problema sarebbe stato risolto. Perché erano diventati un problema l'uno per l'altro? Il respiro di uno era per l'altro sfida e minaccia. L'odio reciproco li legava come mai l'amore avrebbe potuto fare. Leclerc puntava alla venuta di quel giorno in cui sarebbe riuscito a sfiancare lo spirito di Batard per vederlo strisciare, piagnucolare ai suoi piedi. E Batard? Leclerc sapeva cosa aveva in mente Batard e glielo aveva letto negli occhi più di una volta e glielo aveva letto talmente chiaro che quando aveva Batard dietro di sé si faceva scrupolo di guardarsi spesso le spalle. Quando Leclerc rifiutava laute somme per il cane, gli uomini si meravigliavano. «Un bel giorno finirai per ammazzarlo e così ci perderai», gli aveva detto una volta John Emmeling, mentre Batard era steso ansimante sulla neve dopo che Leclerc lo aveva preso a calci e nessuno sapeva se aveva le costole spezzate, perché nessuno osava controllare. «Messie», aveva ribattuto asciutto Leclerc, «il cane sono affari miei!» Si meravigliavano anche che Batard non fuggisse. Non capivano Leclerc invece capiva. Era un uomo che viveva all'aperto, oltre il rumore delle lingue, e aveva imparato a conoscere la voce del vento e della tempesta, il sospiro della notte, il mormorare dell'alba, il frastuono del giorno. Riusciva a sentire il crescere impercettibile della vegetazione, lo scorrere della linfa, il germoglio che si schiudeva. E poi conosceva la sottile conversazione delle cose che si muovevano, il coniglio in trappola, il corvo malinconico che batteva l'aria con l'ala muta, il grizzly che si trascinava sotto la luna, il lupo che scivolava tra il crepuscolo e il buio come un'ombra grigia. E a lui Batar parlava forte e chiaro. Lo capiva molto bene perché Batar non scappava, per cui si guardava sempre più spesso le spalle. Quando Batar era furioso, non era un bello spettacolo. E più di una volta era saltato alla gola di Leclerc tentando di assannarlo, per venir steso dal calcio sempre pronto della frusta per i cani, svenuto e tremante nella neve. E così Batar imparò a ingannare il tempo. Quando raggiunse il pieno delle forze nel fiore della gioventù, pensò che i tempi fossero maturi. Aveva un ampio torace, la muscolatura ben più possente del normale, il collo era una massa di pelo irto dalla testa alle spalle, aveva in tutto e per tutto l'aspetto di un vero lupo. Leclerc dormiva avvolto nelle pelli quando Batar decise che era giunto il momento di colpire. Si avvicinò a testa bassa e strisciando furtivamente pancia a terra, con la morbidezza felpata di un felino e l'orecchio solitario buttato all'indietro, Batard respirava con calma, con molta calma, e alzò la testa solo quando fu a tiro. Si fermò un istante per osservare il nodoso collo nudo, taurino e abbronzato, che si gonfiava regolare seguendo il respiro profondo. A quella vista la saliva gli colò dalla lingua lungo le zanne. In quel momento ricordò l'orecchio morto, gli innumerevoli pestaggi, i torti prodigiosi. Senza un fiato scattò addosso all'uomo addormentato. Leclerc si svegliò, sentendo il dolore acuto delle zanne nella gola, e da perfetto animale qual era si svegliò lucido e perfettamente cosciente. Serrò la trachea di Batar con entrambe le mani mentre rotolava fuori dalle pelli per mettersi in posizione dominante. Ma le migliaia di antenati di Batar che avevano abbattuto innumerevoli alci e caribù appesi alla loro gola erano adesso la sua saggezza. Quando il peso di Leclerc gli fu addosso, alzò le zampe posteriori, le ritrasse e affondò gli artigli nel petto lacerando l'addome e strappando pelle e muscoli. E quando sentì il corpo fremente sollevarsi sopra di lui, colpì l'uomo dilaniandogli la gola. I cani della muta iniziarono a fare cerchio ringhiando e Batar, ansimante, quasi privo di sensi, sapeva che quelle mascelle affamate volevano lui. Ma che importava? Era l'uomo quello che gli stava sopra, e allora tirava e affondava, scuoteva e dilaniava sino all'ultima briciola di forza. Leclerc lo soffocò con entrambe le mani sino a quando il torace di Batar si sollevò dimenandosi alla ricerca dell'aria che gli era venuta a mancare. Lo sguardo si fece vacuo e fisso e le mandibole mollarono lentamente la presa con la lingua nera e gonfia che penzolava fuori. «Eh, bon demonio!» farfugliò Leclerc con la gola ostruita dal sangue mentre scagliava lontano il cane stordito. Poi Leclerc bestemmiò contro gli altri cani che si erano scagliati su Batard e li scacciò via. Questi arretrarono formando un cerchio più ampio. Si accucciarono sulle zampe posteriori a leccarsi i baffi con aria attenta e il pelo del collo irto e ispido. Batar si riprese rapidamente e nel sentire la voce di Leclerc si rimise in piedi barcollando lentamente avanti e indietro. Tu gran demonio, biascicò Leclerc. Io sistema tutto, pardieu. Batar, che sentiva l'ossigeno pizzicare come vino ai polmoni esausti, saltò come un lampo in faccia all'uomo, ma le mandibole mancarono il colpo serrandosi con rumore metallico. Rotolarono più volte sulla neve mentre Leclerc, come una furia, lo riempiva di pugni. Poi si separarono facendo avanti e indietro, l'uno di fronte all'altro, disegnando dei cerchi. Leclerc avrebbe potuto estrarre il coltello. Il fucile era ai suoi piedi, ma la belva in lui era pronta e rabbiosa. l'avrebbe risolta con le mani e con i denti. Batar saltò, ma Leclerc lo abbatté colpendolo con un cazzotto, si lanciò su di lui e affondò i denti fino all'osso nella spalla del cane. Erano in un luogo primordiale. La scena era primordiale, simile a quella che avrebbe potuto accadere nel selvaggio mondo primitivo. Nello spazio aperto di una selva oscura, una cerchia di cani lupi ghignava con al centro due belve avvinghiate nella lotta, che si mordevano ringhiandosi addosso con una rabbia folle e ansimavano, singhiozzavano, bestemmiavano e tiravano, spinti da una passione selvaggia, dalla furia assassina che li induceva a lacerare, strappare e dilaniare con una brutalità primitiva. Leclerc colpì Batard con un cazzotto dietro l'orecchio, facendolo cadere stordito all'istante. Poi gli fu sopra con i piedi e, saltando su e giù, cercò di macinarlo a forza sul terreno. Prima che Leclerc si fermasse a rifiatare, le zampe posteriori di Batard erano già spezzate. Urlò agitando il pugno senza riuscire a parlare a causa della gola e della laringe fuori uso. Ma Batard era indomabile, era lì a terra, in un guazzabuglio senza scampo, il labbro debolmente sollevato, e si contorceva per il ringhio che non aveva la forza di emettere. Leclerc lo prese a calci e le mandibole esauste si chiusero sulla caviglia, ma non riuscì a oltrepassare la pelle. Poi Leclerc raccolse la frusta e procedette a farlo praticamente a pezzi, e a ogni colpo di frusta urlava: «Questa volta io ti spezzo, ti spezzo, par Dieu!» Alla fine, esausta, sentendosi venir meno per il sangue perduto, si schiantò, cadendo accanto alla sua vittima. E quando i cani lupo si avvicinarono per la loro vendetta, con un ultimo sforzo di volontà trascinò il suo corpo su quello di Batard per proteggerlo dalle loro zanne. Tutto ciò accadeva non distante da Sunrise, e quando alcune ore dopo il missionario aprì la porta a Leclerc, rimase sorpreso nel notare l'assenza di Batard dalla muta. Ne fu meno sorpreso quando Leclerc sollevò i panni dalla slitta, accolse Batard tra le braccia e varcò la soglia barcollando. Siccome il chirurgo di McQuestion, quella specie di gigrellone, era capitato qui a fare due chiacchiere, insieme si accinsero a ricucire Leclerc. «Grazie, no, no», disse lui. «Tu sistema prima cane. Morire, no, quello no, no, perché lui io devo ancora spezzare. Per cui non deve morire». Il chirurgo disse che era sorprendente, e il missionario che era un vero miracolo averla scampata per Leclerc. Era talmente indebolito che in primavera fu colto da una febbre che lo stese nuovamente. In Batard, che si era ritrovato in condizioni ben peggiori, prevalse la voglia di vivere. Così, nel corso delle lunghe settimane in cui fu legato al pavimento, le zampe posteriori si saldarono e gli organi interni tornarono a posto. Quando un Leclerc, ormai convalescente, giallastro e vacillante, tornò a prendere il sole sulla porta del rifugio, Batard aveva già riaffermato la supremazia sulla sua razza, sottomettendo non solo i cani della muta, ma anche quelli del missionario. Non mosse un muscolo, né sollevò un pelo quando un barcollante Leclerc uscì per la prima volta a sedersi con infinita cautela sullo sgabello a tre gambe. «Bon!» disse. «Bon! Bel sole!» Allungò le mani distrutte e le distese per lavarle di calore. Poi il suo sguardo cadde sul cane e la vecchia scintilla balenò nuovamente nei suoi occhi. Sfiorò il braccio del missionario. «Mon père, quello Batard, lui un grande diavolo. Portami la pistola, così bevo in pace il sole». Rimase molti giorni al sole davanti alla porta del rifugio. Non si appisolava mai e teneva la pistola sempre tra le ginocchia. Per prima cosa ogni giorno Batard cercava con lo sguardo l'arma per controllare se era al solito posto. Come la vedeva, impercettibilmente sollevava il labbro in segno di assenso, e Leclerc alzava il suo rispondendo con un ghigno. Un giorno il missionario notò il giochetto. «Santo cielo!» disse. «Credo davvero che la belva capisca!» Leclerc rise sommesso, Guarda tu, mon père, guarda tu, quello che dico io, quello lui ascolta. A conferma della cosa, Batar dimenò impercettibilmente all'insù il suo orecchio solitario per cogliere la voce. Io ho detto uscite! Batar emise un ringhio profondo dalla gola, rizzò il pelo sul collo e i muscoli si tesero nell'attesa. La pistola, io l'alzo, così! E dando seguito alle parole fece vedere la pistola a Batar. Con un solo balzo laterale, Batar atterrò dietro l'angolo del rifugio, fuori dalla visuale. Santo cielo! Ripeté il missionario più volte. Leclerc ghignava orgoglioso. Ma perché non scappa? Il francese alzò le spalle con il tipico gesto della sua gente, che significa tutto, dalla totale ignoranza all'infinita comprensione. Ma allora perché non lo uccidi? Fece di nuovo spallucce. Dopo una pausa parlò. Mon père, non è ancora il suo tempo. Lui è un grande diavolo. Ma prima io lo spezzo tutto, tutto in pezzettini, eh? Prima o poi. Bon? Arrivò il giorno in cui Leclerc, dopo aver radunato i cani, discese con il battello fino a 40 Mile e proseguì verso il Porcupine, dove accettò l'incarico della BC Company di andare a esplorare per quasi un anno. Poi lavorò di pertica per risalire il Koyokuk sino all'ormai abbandonata Arctic City e quindi si lasciò portare indietro da un campo all'altro lungo lo Yukon. Batar, in quei lunghi mesi, ricevette le sue belle lezioni. Imparò molte torture, in particolare la tortura della fame, la tortura della sete, la tortura del fuoco e soprattutto la tortura della musica. Come tutta la sua specie, non amava la musica. Gli procurava un'ansia raffinata che gli spezzava i nervi, lacerando ogni singola fibra del suo essere. Lo faceva ululare a lungo come un lupo, proprio come quando i lupi ululano alle stelle nelle notti gelate. Non poteva fare a meno di ululare. Nella competizione con Leclerc era la sua debolezza e la sua vergogna. Leclerc, al contrario, era un vero amante della musica. La amava almeno quanto amava bere forte. E quando la sua anima reclamava uno sfogo, si esprimeva in uno di questi due modi, in genere entrambi. Quando aveva bevuto, il cervello entrava in armonia con il canto inespresso. Il demonio interiore si ergeva straripante e la sua anima trovava espressione suprema nel torturare Batar. Adesso avremo un po' di musica, soleva dire. Eh? Cosa ne pensi, Batar? La sua era solo una vecchia armonica, mal ridotta, custodita con cura e tenuta insieme pazientemente. Ma era il meglio che si potesse acquistare e da quelle canne argentate tirava fuori bizzarre melodie vagabonde, mai udite prima. Batar, sgolato, serrava i denti ben stretti e si ritirava centimetro dopo centimetro sino all'angolo più lontano del rifugio. Ma Leclerc continuava a suonare e lo seguiva con un robusto bastone sotto braccio, centimetro dopo centimetro e passo dopo passo, sino a quando non aveva più scampo. Batar prima si raccoglieva con fare servile nel minor spazio possibile vicino al pavimento, ma come la musica si avvicinava era costretto ad alzarsi e a indietreggiare contro i tronchi menando colpi in aria con le zampe anteriori come per respingere le ondate di suono. Teneva sempre i denti serrati, ma del suo corpo si impadronivano gravi contrazioni muscolari, strane tensioni e irritazioni che lo facevano fremere e dimenare in un silenzioso tormento. Una volta perso il controllo, le mandibole di colpo si spalancavano e dalla gola uscivano profonde vibrazioni gutturali, il cui registro era troppo basso per essere colto dall'orecchio umano. E infine, quando le narici si dilatavano, gli occhi si spalancavano e il pelo si rizzava per la rabbia impotente, sorgeva il lungo ululato del lupo. Arrivava con furia indistinta che risaliva sino a diventare una grande esplosione di suono tale da spaccare il cuore e che poi svaniva con un dolore dolente e cadenzato, e quindi un'ottava dopo l'altra c'era la sfuriata seguente verso l'alto, il cuore che esplodeva, e l'infinita afflizione e la tristezza, e tutto svaniva incalando e lentamente si spegneva. Roba degna dell'inferno. E Leclerc, che aveva un intuito diabolico, con quelle lunghe note malinconiche trascinate sino a diventare tremolanti singhiozzi, con i quali sapeva estrarli fino all'ultima particella di dolore, pareva indovinare ogni singolo nervo e ogni corda del suo cuore. Era terrificante. E per le successive 24 ore Bataille rimaneva scosso e nervoso. E a ogni minimo rumore sussultava, inciampava nella propria ombra, anche se con i compagni di tiro continuava ad essere malvagio e prepotente. Né il suo spirito indomito dava segni di cedimento. Anzi, si era fatto ancora più torvo e taciturno. E aspettava sempre il suo momento. E la sua imperscrutabile pazienza cominciava a turbare Leclerc, che adesso era preoccupato. Il cane era capace di starsene per ore immobile accanto al fuoco, fissandolo con tutto l'odio di cui era capace. Spesso l'uomo aveva l'impressione di essersi scontrato con l'essenza stessa della vita, quell'essenza indomabile che dal cielo spinge il falco impicchiata come un fulmine alato, guida la grande oca polare attraverso i continenti e scaglia i salmoni in amore attraverso i 3200 chilometri delle ribollenti acque dello Yukon. In questi momenti sentiva l'urgenza di esprimere la propria essenza indomabile. E con tanto alcol, la musica sfrenata e Bataille si concedeva orge smisurate con le quali lanciava la sua sfida in faccia a tutto ciò che era stato e che ancora doveva essere. «Lì c'è qualcosa!» affermava quando i capricci ritmati della sua mente toccavano le corde segrete dell'essenza di Bataille, facendo sorgere il lungo e macabro ululato. «Io ho tirato fuori con mie mani questo ululato, così e così. Che spasso grande! Che grande spasso! Il prete canta, le donne pregano, gli uomini bestemmiano, il piccolo uccello, cip cip, ma da lui fa ed è sempre proprio stessa cosa. Ma tutte le cose brutte come quelle belle arrivano alla fine. E così accade per Black Leclerc. Lasciò MacDougall diretto a Sunrise, con l'acqua bassa dell'estate, su una barca a Pertica. Da MacDougall partì in compagnia di Timothy Brown e a Sunrise arrivò da solo. Si sapeva inoltre che i due avevano discusso poco prima di partire. La Lizzie, un rantolante piroscafo con la ruota poppiera a pale di 10 tonnellate, era infatti indietro di 24 ore, ma anticipò Leclerc di 3 giorni. E quando lui finalmente arrivò aveva un buco di proiettile perfetto nel muscolo della spalla e il racconto di un'imboscata e di un omicidio. Gli furono concesse 10 ore, il tempo necessario alla Lizzie per andare a verificare. Passarono 10 ore e la Lizzie fece ritorno. Non c'era niente da verificare. Non era stata trovata alcuna prova a supporto delle sue dichiarazioni. Gli fu detto di scrivere il proprio testamento, visto che a Sunrise possedeva una concessione da $50,000 e che loro erano una razza che rispettava e che faceva rispettare la legge. Leclerc fece spallucce. «Ora una cosa», disse. «Un piccolo, come dite voi, favore. Un piccolo favore, ecco, oui. Io dare i miei $50,000 a chiesa. Dare mio cane Husky Bataille al diavolo. Il piccolo favore? Il piccolo favore? Ma voi impiccate lui prima e poi impiccate me dopo? Ebbene no?» Andava bene, d'accordo. Strippe d'inferno avrebbe aperto la pista al suo padrone attraverso l'ultimo passo. Così la corte fu aggiornata sulla riva del fiume, dove c'era un grande abete rosso solitario. Schleckwater Charlie sistemò il nodo del boia a una fune da traino, fece passare il cappio sulla testa di Leclerc e glielo strinse intorno al collo. Aveva le mani legate dietro la schiena, venne aiutato a salire su una cassa. fecero scorrere l'altro capo della corda su un ramo sporgente, lo tirarono bene e lo legarono. Un calcio alla cassa da sotto avrebbe fatto penzolare nel vuoto. «Adesso il cane», disse Webster Shaw, che faceva anche l'ingegnere minerario. «Dovete legarlo, Schlackwater?» Leclerc ghignava. Schlackwater, dopo essersi messo in bocca una presa di tabacco, fece un cappio e con calma procedette a farsi passare qualche giro di corda intorno alla mano. Si fermò un paio di volte per liberarsi dalle zanzare particolarmente aggressive che aveva in faccia, tutti a scacciare zanzare, tranne Leclerc, che intorno alla testa ne aveva una nuvola ben visibile. Persino Batard, completamente disteso per terra, si grattava via i parassiti dagli occhi e dalla bocca con le zampe anteriori. Ma mentre Schlackwater aspettava che Batard alzasse la testa, il silenzio venne rotto da un debole richiamo e sulla spianata che veniva da Sunrise apparve un uomo che correva agitando le braccia. Era il bottegaio. «Sospendete tutto, ragazzi!» ansimò mentre si avvicinava. «Sono appena arrivati Little Sandy e Bernadotte», spiegò quando gli tornò il fiato. «Hanno attraccato più avanti e sono risaliti dalla scorciatoia. Con loro c'è Beaver. L'hanno trovato nella canoa, bloccato in un braccio corto del fiume e con un paio di buchi di proiettili. La cosa da fare adesso è insegnare a questi dannati un po' di buone maniere», disse Webster Shaw. «Stanno diventando grassi e insolenti. Dobbiamo rimetterli al loro posto. Raduna i maschi e lega Beaver per una lezione pratica. Il programma è questo». «Ehi, messieurs!» chiamò Leclerc mentre la folla iniziava a sparpagliarsi nel crepuscolo diretta a Sunrise. Io piacerei vedere divertimento! Dai, ti liberiamo al ritorno!» gridò Webster Shaw senza girarsi. «Intanto medita sui tuoi peccati e sulle vie della provvidenza che ti farà bene! Anzi, ringrazia!» I nervi degli uomini abituati a correre grandi rischi sono sani e allenati alla pazienza. Così Leclerc si preparò alla lunga attesa, il che vale a dire che lo fece mentalmente. Sistemare il corpo era infatti impossibile, poiché la corda era tesa e lo costringeva a stare rigorosamente eretto. Al minimo cedimento dei muscoli delle gambe, il robusto cappio premeva contro il collo, mentre la posizione eretta gli procurava molto dolore alla spalla ferita. Sporse il labbro inferiore, espellendo aria verso l'alto, lungo la faccia, per soffiare via le zanzare dagli occhi. Quella situazione era comunque gratificante. Essere strappato alle fauci della morte valeva bene un po' di sofferenza corporea. «Peccato per dessi l'impiccagione di Baver!» E così meditò, sin da quando spostò per caso gli occhi su Batard. Steso a terra, addormentato, con la testa fra le zampe. E fu allora che Leclerc cessò di meditare. Studiò attentamente l'animale, cercando di capire se era vero o se fingeva. I fianchi di Batard si alzavano regolarmente, ma Leclerc ebbe la sensazione che il respiro andasse e venisse leggermente più veloce del dovuto. Inoltre sentiva un'attenzione, una prontezza in ogni suo pelo che smentivano quel sonno ristoratore. Avrebbe dato la sua concessione di Sunrise pur di essere sicuro che il cane non fosse sveglio. E a un certo punto, quando uno dei suoi legamenti schioccò con aria colpevole, guardò subito Batard per vedere se si era alzato. No, quella volta non si era alzato, ma lo aveva fatto lentamente, pigramente alcuni minuti dopo, quando si era stirato e si era guardato attentamente intorno. «Sacredon!» disse Leclerc in un soffio. Assicuratosi che non c'era nessuno in vista né in ascolto, Batard sedette e arricciò il labbro superiore quasi in un sorriso. Poi guardò in alto verso Leclerc e si leccò i baffi. «Io vedo il mio finale!» disse l'uomo facendo una rumorosa risata sardonica. Batard si avvicinò. L'orecchio morto dondolava. Quello buono era puntato in avanti in diabolica comprensione. Piegò la testa da un lato con aria interrogativa e avanzò lezioso, a passo allegro. Strofinò il corpo dolcemente contro la cassa, sino a farla muovere varie volte. Leclerc barcollò, facendo attenzione a mantenere l'equilibrio. «Batard», disse con calma, «attento!» tu, io ti ammazzo! Batar sentì la parola e ringhiò scuotendo più forte la cassa. Poi arretrò con le zampe anteriori e le si lanciò contro di peso più in alto. Leclerc scalciò con un piede, ma la corda che stringeva il collo si tese talmente rapida da fargli quasi perdere l'equilibrio. «Ah dai! Vai avanti!» urlò. Batard arretrò di circa 7 metri, con una demoniaca leggerezza di portamento che Leclerc poté solo ammirare. Si ricordò del cane che tante volte aveva rotto lo strato di ghiaccio per fare un buco e arrivare sino all'acqua, alzandosi e buttandoci contro il peso. E ricordando questo, ora capiva cosa aveva in mente. Batard si voltò e fece una pausa. Con un ghigno mostrò i denti bianchi a Leclerc, che rispose. E poi scagliò il suo corpo in aria, caricando a tutta forza contro la cassa. 15 minuti dopo, Schlackweather Charlie e Webster Show furono di ritorno. E nella luce fioca scorsero un pendolo spettrale dondolare avanti e indietro. Aumentarono il passo e nell'avvicinarsi riconobbero il corpo inerte dell'uomo, al quale era appesa una cosa viva che lo scuoteva e lo dilaniava, imprimendogli quel movimento altalenante. «Ah dai! Vai, strippe d'inferno!» urlò Webster Shaw. Ma Batard lo fulminò, ringhiando minacciosamente senza allentare le mandibole. Schlackweather Charlie estrasse la pistola, ma le mani gli tremarono come percorse da un brivido e annaspò. «Ecco, prendi», disse passando l'arma. Webster Shaw fece una breve risata, prese la mira in mezzo agli occhi scintillanti e premette il grilletto. Il corpo di Batard si contorse per il colpo, sbatté a terra con movimenti spasmodici per un attimo e di colpo si afflosciò, ma i suoi denti restarono saldamente chiusi e bloccati.